Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Thomas Jefferson era certamente uno che di politica e comunicazione ne capiva, e il suo volto, scolpito sul Monte Rushmore, è lì a testimoniare che le sue idee hanno lasciato un segno profondo nella storia americana. L'ex presidente degli States una volta aveva detto: «La nostra libertà dipende dalla libertà di stampa, ed essa non può essere limitata senza che vada perduta». Una teoria sposata da numerosissimi pensatori liberali e progressisti nel corso dei decenni, che hanno sempre visto nel cosiddetto quarto potere uno strumento di controllo necessario all'attività degli altri tre poteri fondamentali degli stati democratici, quello esecutivo, quello legislativo e quello giudiziario. Tiziano Terzani, ad esempio, aveva definito la stampa, quella buona, quella integra e non corrotta, la voce della gente che non può parlare. La storia che vi raccontiamo oggi ha a che fare con un problema molto vicino a queste riflessioni. La libertà di divulgazione ha un limite? O tutto ciò che giornalisti e comunicatori scoprono, tutto ciò di cui vengono in possesso può e deve essere reso pubblico? In altre parole, il potere può avere qualcosa da nascondere? Il luogo da cui partiamo per il nostro viaggio di oggi si chiama Södermalm. Si tratta di una delle tante isole che costituiscono l'ossatura della meravigliosa città di Stoccolma. Una zona affascinante della capitale svedese, un tempo densamente popolata dalle classi meno abbienti, diventata invece nel XX secolo un luogo alla moda, il cuore pulsante della cultura alternativa di Stoccolma, un quartiere ricco di locali, centri commerciali e atelier, disseminati lungo le suggestive vie formate da lunghe file di deliziose casette colorate. In questa zona si trova il Pionen White Mountain Center, una struttura impressionante che sembra uscita direttamente da un film di fantascienza o dalla penna di Jules Verne. Scavato nella roccia a 30 metri di profondità sotto il livello del mare, il Pionen è un complesso di stanze e cunicoli costruito nel 1943 come rifugio antiatomico e come tale utilizzato dai militari durante la Guerra Fredda, acquistato recentemente dalla più importante società svedese di telecomunicazioni, la Bahnhof. Dopo la ristrutturazione, il Pionen Center è un luogo incredibilmente suggestivo e affascinante. Avvolto da una luce irreale, arredato con elementi di design che contrastano volutamente con rocce e stalattiti, questo centro ospita come una fortezza i server di numerose società di tutto il mondo. In una stanza del Pionen Center ci sono alcune macchine ben separate da tutte le altre che contengono dati che centinaia di governi in tutto il mondo vorrebbero far sparire. Su queste macchine c'è una piccola targhetta con una scritta: WikiLeaks. Partiamo dal nome, anzi dai nomi, Wiki e Leaks. Wiki è un termine di origine hawaiana, significa rapido, veloce. Se vi capiterà mai di prendere a Honolulu un bus per l'aeroporto, scoprirete che i locali li chiamano WikiWiki. Oggi con il termine Wiki si indica un sito web che permette ai suoi stessi utenti di caricare in maniera rapida e diretta documenti che essi vogliono condividere. Il termine inglese leak, invece, significa perdita, fuga. Nel caso di WikiLeaks, fuga di notizie. Somalia, dicembre 2006. Il paese continua a essere dilaniato dalle guerre civili. Proprio in quei giorni fa l'apparizione sul web il sito wikileaks.org, che debutta riportando un documento riguardante proprio la Somalia. Le prove di un imminente attentato ordito dallo sceicco Hassan Dahir Hawais nei confronti del traballante governo somalo. È il lancio in grande stile di WikiLeaks, che presenta al mondo intero il suo programma: pubblicare tutti i documenti che provino azioni illecite di governi, istituzioni, multinazionali e che i soggetti in questione tentano di tenere nascoste. WikiLeaks non fa però operazioni di spionaggio. Pubblica e dà voce a documenti che fonti sparse decidono spontaneamente di rendere pubbliche. In pratica, WikiLeaks offre solo un potentissimo megafono a chi intende urlare una protesta e sbatterla in faccia ai potenti della Terra. Oggi Wikileaks è diventato un fenomeno discusso e dibattuto sulle pagine dei quotidiani e delle riviste più importanti di tutto il mondo. Il sito è il prodotto dell'attività di un gruppo di lavoro, ma c'è una figura che ne rappresenta con forza e determinazione l'immagine a livello internazionale. L'uomo che ne è stato tra i maggiori ispiratori e che ne costituisce il portavoce e l'ideologo. Un personaggio controverso che per certi aspetti ora è considerato uno degli uomini più temuti al mondo. Julian Assange. Julian Assange. La domanda che dobbiamo porci è quale tipo di informazione sia importante nel mondo, quale tipo di informazione può realizzare le riforme. Esiste una montagna di informazioni. Le informazioni che le organizzazioni, con un grosso sforzo economico, stanno cercando di occultare, sono un segnale molto positivo che dice che quando l'informazione viene a galla, c'è una speranza di fare qualcosa di buono. Julian Assange è nato a Townsville in Australia nel 1971. Il padre biologico di Julian si chiama John Shipton, ma sua madre si risposa quando lui ha solo un anno con Brett Assange, direttore di una delle più importanti compagnie teatrali ambulanti dell'Australia, il quale dà a Julian il suo cognome. Non è un'infanzia propriamente tranquilla quella di Julian Assange. Sua madre, infatti, si separa e si risposa molte altre volte, spostandosi da Townsville e girando mezza Australia. Si dice che prima di compiere i 14 anni, Julian abbia già cambiato oltre 30 istituti, con conseguenti problemi sulla continuità scolastica. Eppure, il giovanissimo Assange eccelle negli studi e non perde occasione per dimostrare la sua intelligenza, in particolare nelle materie scientifiche e in quelle matematiche. Durante uno dei tanti spostamenti, si ritrova a vivere di fronte a un negozio di elettronica nel quale inizia a far pratica e a imparare a scrivere programmi. La mia vera passione sin da piccolo sono stati i computer e i software in particolare. Non so se mi definirei un hacker, dovrei pensarci. Un hacker è colui che in ogni ambito dell'esistenza sfida il sistema per superarne i limiti e le barriere imposte che non considera condivisibili. Ormai nell'opinione pubblica questo termine si è sovrapposto a quello di cracker, cioè colui che applica questo concetto unicamente all'ambito informatico. Julian Assange, a soli 16 anni, si può considerare a tutti gli effetti un hacker esperto. International Subversives è il nome del primo gruppo di hacker guidato da Julian Assange. Tre ragazzi che condividono la stessa passione per i computer e la stessa insofferenza per le regole, che iniziano a trovarsi costantemente per svolgere la loro attività. Julian si fa chiamare con uno pseudonimo, Mendax, termine tratto da un'opera dello scrittore latino Orazio, e redige insieme ai suoi soci un codice etico dell'hackeraggio. Non danneggiare i sistemi in cui riesce a penetrare. Non cambiare le informazioni di questi stessi sistemi, se non per coprire le proprie tracce. Condividi tutte le informazioni di cui entri in possesso. Grazie ai software da lui sviluppati, il giovanissimo gruppo di hacker si infiltra nei meandri informatici di NASA, Pentagono, Dipartimento della Difesa e altri siti apparentemente blindati. Nell'ottobre del 1989, poco prima del decollo della navicella Atlantis, i tecnici della NASA vedono comparire sui computer la scritta WANK, acronimo inglese di Worms Against Nuclear Killers, vermi contro killer nucleari. Julian Assange ha appena 18 anni, ma ha già dimostrato al governo degli Stati Uniti di essere un osso duro. La polizia federale australiana comincia a stare sulle tracce di questo gruppo di hacker e avvia un'operazione massiccia dal nome in codice Weather per indagare sulla loro attività. Nel 1991 Mendax, alias Julian Assange, viene scoperto mentre sta entrando nel terminale di una compagnia telefonica canadese. La polizia blocca la linea telefonica di Assange e fa irruzione in casa sua. Nel giro di 3 anni il caso finisce alla Corte federale, dove viene imputato con 31 capi d'accusa per hackeraggio e crimini simili. Nonostante sia ritenuto colpevole, con una sentenza incredibile la Corte federale australiana non lo condanna. Il giudice infatti dice che non c'è nessuna prova che ci fosse altro intento se non una pura e semplice dimostrazione di intelligenza e il piacere di dimostrare la propria capacità di violare ogni sorta di dispositivo di sicurezza. Una ragazzata, insomma. Solo che Julian la paga cara nel privato. Nel frattempo, infatti, si era sposato e aveva anche avuto un figlio, Daniel. La moglie non ci pensa due volte e lo lascia portando con sé il loro figlio. Lo stress per la battaglia legale che segue gli lascia per ricordo una chioma bianca. È il 1990. La neve sarà bella, ma non mi ispira niente. Ah, che noia, non so che cosa fare. Potrei dormire oppure cucinare. Sapessi come sono solo e provo un po' di invidia se ti penso a me che qui soffro di nevia, un grande senso di inutilità. Quello che oggi è diventato uno degli uomini più pericolosi del mondo, sin dall'adolescenza, si dimostra uno strenuo lottatore e difensore dei diritti e delle libertà individuali. Pensate che nel 1993 è tra i fondatori del primo internet provider completamente gratuito dell'Australia. Pensate che la maggior parte del suo tempo, a metà degli anni 90, viene speso a programmare software da distribuire gratuitamente nel web. Per salvarsi e cercare di portare da qualche parte la sua vita, Assange prova a mettere la testa a posto. Si trasforma da hacker a difensore dei sistemi informatici. Inizia a studiare fisica, si stabilizza a Melbourne, realizza Strobe, il primo port scanner open source, e il Rubber Hose Deniable Encryption, un nuovo concetto di crittografia per proteggere i dati sensibili. Si laurea brillantemente all'Università di Melbourne, stavolta lasciandosi dietro 6 atenei diversi, e inizia un percorso di dottorato. Ma qualcosa ancora non va. La sconfortante conformità dei suoi colleghi accademici lo deprime e ricomincia a vagabondare. Abbandona l'Australia e vive in Kenya, Tanzania, Vietnam, Svezia, Irlanda, Siberia, Belgio e Stati Uniti. Questo geniale bohemian della rete, questo imprevedibile selvaggio genio del computer, con una naturale insofferenza per tutto ciò che è imposto, per tutto ciò che soffoca in qualche modo le libertà individuali, all'inizio del nuovo millennio è già schedato per le sue ragazzate dai servizi segreti di mezzo mondo. Non può sapere, in effetti, che di lì a poco diventerà l'uomo probabilmente più ricercato di tutto il globo. Non può saperlo quando nel 1999 registra un dominio, leaks.org. Lo fa così, senza sapere bene cosa farsene. Lo sente in qualche modo affine al suo spirito. 5 anni a vagabondare per il mondo. Poi, mentre si trova in Svezia, nel 2006, Julian Assange fonda Wikileaks, riprendendo e modificando il vecchio dominio del 1999, mai lasciato scadere. Wikileaks è concettualmente una sorta di Wikipedia non censurabile, destinato alla pubblicazione di documenti segreti. Il termine to leak, letteralmente trapelare, significa rendere pubblica un'informazione senza autorizzazione ufficiale, nonostante gli sforzi per tenerla segreta. I nostri bersagli principali sono i regimi oppressivi come la Cina, la Russia e dell'Asia centrale. Ma ci aspettiamo di essere d'aiuto anche per chi in Occidente vorrebbe che fossero denunciati comportamenti illegali e immorali dei governi e delle grandi società. L'interfaccia è simile a quella di Wikipedia ed è usabile da qualunque tipo di persona. In breve, riceve più di 1 milione di documenti, tutti provenienti da fonti anonime. Grazie a Wikileaks, Assange mette in piazza email personali, file riservati, dossier segreti, documenti interni e rapporti confidenziali. Contenuti scomodi e pesantissimi che svelano verità tenute nascoste. In 3 anni, scoop e guai camminano direttamente proporzionali. Più sono grossi, più i pirati di Wikileaks rischiano. Uno dei primi documenti messo in vetrina è il regolamento di Guantanamo. Segue la denuncia per l'approssimazione degli studi sul riscaldamento globale. Poi è la volta della banca Julius Baer, l'istituto privato di Zurigo, che li querela ottenendo la chiusura temporanea del sito. Sembra la fine, ma la sentenza scatena un effetto boomerang. Vecchi e nuovi media, una coalizione di 18 grandi associazioni, insieme ai grandi giornali statunitensi, fanno fronte comune, sostenendo il ricorso in tribunale, e vincono. La sentenza viene completamente ribaltata. Wikileaks torna online e la banca rinuncia all'azione legale. La crociata non si ferma. Tocca la multinazionale di trading petrolifero Trafigura, accusata di aver scaricato in costa d'Avorio rifiuti tossici, Scientology e la massoneria. Arrivano le prove dei massacri in Kenya, grazie alle quali vincono il Media Award 2009 di Amnesty International. Non è ancora però l'apice della notorietà o il punto più alto della battaglia portata avanti da Wikileaks. Il primo vero picco arriva quando Assange inizia a lavorare insieme ai suoi collaboratori al misterioso Project B. Soprattutto arriva quando Assange scopre di aver avuto un illustre predecessore. Per caso si imbatte in una storia che non conosceva, poco nota al di fuori dei confini degli Stati Uniti, una vicenda che richiama da vicino la crociata che ha appena intrapreso. Sono i cosiddetti Pentagon Papers, dietro ai quali si staglia la figura di un giornalista che Julian incontrerà e che gli darà un fondamentale incoraggiamento ad andare avanti. Last night a came dancing to my door. Last night a little angel came pumping on the floor. She said, come baby, you got a license for love. And if it expires, pray help from above. Because in the midnight hour, she's brought love, love, love. Destini incrociati. Geniale, paranoide, visionario, una vita da nomade, 37 spostamenti nella sola infanzia, 30 scuole, 6 atenei per un solo sogno, raccontare la storia senza raccontare storie, smascherando le verità più impenetrabili. Julian Assange lo realizza con WikiLeaks, dove mette in piazza i segreti di CIA, massoneria, Scientology, Kenya. Nel 2009 inizia a lavorare al misterioso Project B, un reportage destinato a scuotere il mondo dei media. Prima di scoprire di che cosa si tratti, facciamo un passo indietro. L'avventura di Assange e la parabola di WikiLeaks oggi fanno discutere e producono prese di posizione diverse e tra loro in aperto contrasto. Tuttavia Assange e il suo portale hanno avuto un predecessore, un esempio, un modello che Assange incontra e scopre proprio al momento giusto, quando la lotta si fa più dura e bisogna fare appello a tutte le forze disponibili. Questa sera mi rivolgo a voi, grande maggioranza silenziosa dei miei compatrioti americani. E chiedo il vostro sostegno. Le parole che avete appena sentito vengono pronunciate da Richard Nixon, presidente degli Stati Uniti, il 3 novembre del 1969, per difendere la sua politica estera nel Vietnam. Il presidente, passato la storia per la sua condotta da monarca assoluto e per il Watergate, intensifica l'impegno delle truppe americane nel paese asiatico, autorizzando anche operazioni di grande violenza. Gli americani, apparentemente, appoggiano la politica di Nixon. New York, giugno 1971. Sembra una primavera come le altre per i cittadini americani. Il New York Times, però, ha in serbo una bella sorpresa per l'amministrazione Nixon. Progressivamente, infatti, inizia la pubblicazione dei cosiddetti Pentagon Papers, una serie di rapporti segreti del Pentagono sul coinvolgimento degli Stati Uniti nel Vietnam tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e il 1967. Le United Vietnam Relations 1945-1967, ribattezzate successivamente dalla stampa Pentagon Papers, erano state commissionate dal segretario alla difesa Robert McNamara nel 1967 e furono consegnate all'amministrazione statunitense nel 1968. Si trattava di uno studio top secret e dimostrava come ben 4 amministrazioni, da Truman a Johnson, avessero di fatto mentito all'opinione pubblica, nascondendo le loro effettive intenzioni legate al Vietnam. Nel corso della sua campagna elettorale, nel 1964, per esempio, Lyndon Johnson aveva affermato di non voler estendere il conflitto, ma nella realtà dei fatti si era mosso per espandere le operazioni belliche anche in Laos e Cambogia. La pubblicazione dei Pentagon Papers consentì inoltre all'opinione pubblica di venire a conoscenza di alcune azioni militari sulle quali le amministrazioni non avevano mai fornito notizie. Le informazioni riguardavano i bombardamenti a tappeto della Cambogia e del Laos, i raid sulle coste del Vietnam settentrionale e gli attacchi nella zona da parte dei Marine anche durante l'amministrazione Nixon. Scoppia un pandemonio. Gli americani si indignano e chiedono a gran voce le dimissioni di Nixon. Il presidente, invece, come spesso avviene in questi casi, grida al complotto e scatena i suoi uomini alla caccia del colpevole della soffiata. Il colpevole si chiama Daniel Ellsberg. Daniel Ellsberg. Ellsberg è stato un marine. Entra nell'esercito americano nel 1954, quando ha solo 23 anni. È nato infatti nel 1931 a Chicago, Illinois, in una famiglia agiata profondamente cristiana. Non ero proprio quello che si può definire un uomo d'azione. La carriera militare mi attirava, perché mi piaceva l'idea di servire il mio paese, di occuparmi della difesa del mio paese, ma non ero certo tagliato per fare il soldato. Così sono riuscito ad unire i miei studi al percorso nei Marine. Nel 1964, infatti, Ellsberg inizia a lavorare al Pentagono e fa una brillante carriera nella segreteria del Dipartimento della Difesa. Ellsberg è un personaggio completamente opposto rispetto ad Assange. Tanto quest'ultimo è disordinato, zingaresco, imprevedibile e geniale, quanto il primo è preciso, ordinato, sicuro, stabile. Eppure, anche nel destino di Ellsberg c'è qualcosa che lo porterà ad essere un punto di riferimento per l'hacker australiano e che lo trasformerà in un pericoloso ricercato. Daniel Ellsberg era nel frattempo diventato grande amico di Edward Lansdale, un generale dell'esercito che era stato a lungo in Vietnam, che era poi diventato segretario della difesa e che era stato sollevato dall'incarico perché riteneva necessario avviare in Vietnam un processo di pace gestito dagli stessi vietnamiti. Questa tesi viene sposata con sempre più forza da Ellsberg, che coltiva nel profondo una convinzione. Tutto ciò che riguarda la vita dello Stato deve essere reso noto al popolo. Il popolo deve sapere per poter poi giudicare e potersi esprimere con il voto. Non credo debbano esistere segreti di Stato. Chi o cosa dà diritto a uomini eletti dal popolo, che al popolo devono rispondere di ciò che fanno, di occultare i frutti delle loro azioni? Fatto sta che nel 1967 Ellsberg entra nella commissione McNamara incaricata di redigere il documento United States-Vietnam Relations, una relazione dettagliata delle azioni e delle decisioni dei governi precedenti rispetto al Vietnam, che sarebbero servite al presidente Nixon per elaborare le proprie strategie. Ellsberg scopre che per anni le amministrazioni hanno mentito agli americani. Per anni i presidenti hanno detto di volere abbandonare il paese, mentre parallelamente intensificavano forze e investimenti. Per anni gli americani hanno praticato torture e stragi di civili, tenendo tutto nascosto agli elettori. Ce n'è abbastanza per far capire a Ellsberg che tutelare il proprio paese in quel caso significa rendere pubblico quel fascicolo pieno di menzogne. Mi sono fatto di nascosto una fotocopia del fascicolo. Prima l'ho dato al mio amico giornalista William Fulbright, ma si è rifiutato di pubblicarlo. A quanto pare Ellsberg porta tutta la sua famiglia nel suo ufficio del Pentagono di notte. Come in una catena di montaggio, avvia l'immane opera di fotocopiatura delle oltre 400 pagine del fascicolo. Dopo il rifiuto di Fulbright, Ellsberg va al Washington Post. Ma anche in quel caso ottiene un rifiuto. Il giornale non vuole problemi. Al terzo giro arriva una risposta affermativa. Il New York Times accetta di pubblicare i documenti e decide di farlo progressivamente. Come un fulmine a ciel sereno, il 13 giugno del 1971, la tarda primavera newyorkese viene incendiata dall'uscita della prima parte del fascicolo. Il primo articolo si intitola Vietnam Archive, Pentagon Study Traces, e scatena subito un'ondata di proteste e di polemiche incontrollabili. Gli Stati Uniti erano già squassati da dilaganti proteste contro la guerra in Vietnam, proteste che vengono alimentate dalla pubblicazione di queste carte. La reazione del presidente Nixon non arriva subito. Del resto, ad uscirne davvero con le ossa rotte sono le precedenti amministrazioni, quella di Lyndon Johnson in particolare. Ma poi, sul consiglio di Kissinger, la Casa Bianca parte all'attacco. Inizialmente fa pressioni sul New York Times affinché rinunci alla pubblicazione degli articoli che, secondo Washington, violerebbero i principi basilari della sicurezza nazionale. Questa è la risposta di Arthur Salzberger, direttore del giornale. I giornali sono direttamente coinvolti nella storia e hanno il compito di renderla disponibile ai propri lettori. Non abbiamo violato in alcun modo la sicurezza nazionale, in quanto non abbiamo rivelato segreti preziosi ad un nemico. Li abbiamo rivelati al popolo americano. Dopo le prime tre puntate, il Ministero della Giustizia riesce a far sospendere le pubblicazioni grazie a una sentenza della Corte federale di New York, a cui il governo si era rivolto sostenendo che gli interessi degli Stati Uniti e la sicurezza nazionale avrebbero subito un danno irreparabile dalla diffusione del dossier. Il 30 giugno 1971, la Corte Suprema degli Stati Uniti autorizza però i giornali a riprendere la pubblicazione degli articoli sulla base di quei dossier, perché la libertà di stampa era preminente su qualsiasi considerazione accessoria intesa a bloccare la pubblicazione delle notizie. Silenzio in aula. Oggi, per la prima volta nei 192 anni trascorsi dalla fondazione della Repubblica, viene chiesto ai tribunali federali di affermare che il primo emendamento significa che il governo può impedire la pubblicazione di notizie di vitale importanza per il popolo di questo paese. La stampa, dal punto di vista dei padri fondatori, deve servire ai governati, non ai governanti. Il potere del governo di censurare la stampa è stato abolito perché la stampa rimanesse per sempre libera di censurare il governo. Questa è la sentenza del giudice Ugo Black, passata alla storia, sul caso Pentagon Papers. Ellsberg ha rischiato una pena di quasi 100 anni di carcere. È stato definito da Kissinger l'uomo più pericoloso d'America. Ha fatto una settimana di carcere. Ha subito accuse di ogni genere solo per metterlo a tacere. E non è stato possibile. Il 3 e il 4 giugno del 2010 a New York si tiene il 6° Personal Democracy Forum. Il tema è come la tecnologia ha cambiato la politica. In un emozionante dibattito si confrontano Julian Assange, in videoconferenza dall'Australia, e Daniel Ellsberg. È un ideale passaggio di testimone, una sorta di legittimazione definitiva e concreta che inietta nell'animo tumultuoso di Assange una spinta incredibile, la convinzione che la strada intrapresa sia quella giusta. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati vi stiamo raccontando la storia di quello che secondo il governo degli Stati Uniti è l'uomo più pericoloso del mondo, Julian Assange, e del suo più diretto predecessore, Daniel Ellsberg, un funzionario del Pentagono che nel 1971 aveva consegnato al New York Times le cosiddette Pentagon Papers, fascicoli che provavano una serie di menzogne dette dalle varie amministrazioni americane a cavallo tra gli anni 60 e 70 sulla guerra nel Vietnam. Il 3 giugno del 2010 i due si parlano in videoconferenza. Assange in Australia, Ellsberg al Personal Democracy Forum di New York. Dan è un mio eroe. Ha mostrato al mondo cosa dovrebbe essere il giornalismo di inchiesta e ha dato a tutti una lezione di libertà. Io sto con Julian. Quello che sta facendo è non solo utile, ma necessario. Se avessi avuto anch'io a disposizione mezzi come internet e strumenti come Twitter e Facebook, sarebbe stato più facile. Spero che Julian continui così. È solo un estratto del loro dialogo. La loro discussione verte sul ruolo della stampa come strumento indispensabile per temperare lo scettro dei regnanti, come direbbe Machiavelli. Una discussione vera e franca che apre, tra l'altro, un filo diretto tra i due, foriero di consigli e di suggerimenti per l'hacker australiano. Avere il faccione qui dietro, anzi il mezzo busto di Julian, mi fa sentire come se fossi in analisi. Attento, Dan, perché non puoi vedermi, ma dalla cintola in giù sono completamente nudo. Perché Assange parla in videoconferenza? Perché non è andato a New York? Se ricordate, prima di raccontarvi la storia di Ellsberg, vi abbiamo parlato di un misterioso Project B, cui Assange e Wikileaks si dedicano nel 2008. Questo misterioso fascicolo costituisce l'elemento che fa compiere a Wikileaks la definitiva escalation e fa diventare Assange il ricercato numero uno. Marzo 2010. Il vulcano Eyjafjallajökull ha appena iniziato a eruttare. Siamo giornalisti, siamo qui per scrivere sul vulcano, dice Assange al proprietario di una casa di Reykjavik che ha preso in affitto. Qui, insieme ad alcuni attivisti islandesi, tra cui la parlamentare Brigitta Jonsdottir, volontari e altri fidati membri del team Wikileaks, Assange si rifugia come in un bunker per lavorare su un dossier scottante. Un attimo, un attimo, un attimo, un Assange è entrato in possesso di un filmato che ritrae chiaramente quella che appare come un'indiscriminata uccisione di una dozzina di civili iracheni da parte dei militari americani nel quartiere di Nuova Baghdad. Tra le vittime, due dipendenti della Reuters, un fotografo e un autista. Le immagini riprese da un elicottero Apache mostrano anche l'uccisione di uno di essi e il ferimento di alcuni bambini che si erano avvicinati a lui con l'intento di soccorrerlo. All'epoca del brutale omicidio, dopo le richieste di spiegazioni da parte della Reuters, l'esercito americano apre un'indagine e conclude che le azioni dei soldati sono in conformità con il diritto di guerra e le loro regole d'ingaggio. L'esercito dice che le truppe americane stavano conducendo un raid quando vennero colpite dal fuoco di piccole armi e granate. Chiesero così l'aiuto degli elicotteri e nel conflitto che ne scaturì, due dipendenti Reuters e 9 ribelli vennero uccisi. Il video racconta un'altra realtà. La prima scarica di proiettili dell'Apache si abbatte contro una decina di civili che camminano a bordo strada senza recare alcuna minaccia. Un omicidio da videogame, condotto da uomini che sembrano non possedere più alcun rispetto per l'esistenza umana. Questo è ciò che ritrae il video. Troppo per i vertici dell'esercito americano. Il video appare su WikiLeaks con il titolo esplicativo di Collateral Murder. Si tratta di un reportage di qualità giornalistica assoluta, comunque la si pensi, e la sua pubblicazione solleva un autentico pandemonio. L'amministrazione Obama, che aveva fino a quel momento inneggiato a Internet come strumento di libertà, cambia bruscamente idea. Ciò che WikiLeaks e il suo portavoce Julian Assange compiono sono atti inqualificabili e deplorevoli. Bradley Manning, il soldato di 22 anni che aveva fatto pervenire il video e le informazioni ad Assange, viene arrestato ed è ora detenuto in Kuwait, impossibilitato a interagire con il mondo esterno. Su Assange piove una surreale accusa di stupro della polizia svedese, addirittura tramutata in un mandato di arresto internazionale. Julian, dopo pochi giorni di carcere, torna a piede libero, ben sapendo di avere sul collo il fiato dei potenti di tutto il mondo. Non sembra essersi fatto intimorire, dato che WikiLeaks continua a sfornare documenti dalle ambasciate di tutto il mondo, non sempre particolarmente rivoluzionari, per la verità. In ogni caso, proprio come l'amico Ellsberg 40 anni fa, Assange non si fermerà, in nome di una visione dei media e del giornalismo ancorata a solidi principi etici. All'inizio dello sconvolgente video di Collateral Murder, Assange ha posto una citazione da George Orwell, che ci sembra il modo migliore per descrivere la visione del mondo di questo eccentrico australiano. Il linguaggio politico è concepito in modo che le menzogne suonino sincere e l'omicidio rispettabile, e per dare una parvenza di solidità anche all'aria. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.